24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi due temi caldi a livello comunitario: il rischio default per la Grecia, con l'Eurogruppo chiamato a prendere decisioni importanti, ma sulle quali non appare all'orizzonte un'intesa a breve, e la battaglia sul bilancio 2013, con il durissimo intervento del presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, che ha definito inaccettabile e vergognoso che si faccia giochi politici sulla pelle delle persone colpite dal sisma in Emilia. Oggi parleremo anche di tempo, con la necessità sempre più presente di attuare politiche di prevenzione a livello europeo per evitare catastrofi e di come l'Europa si muova contro il doping nello sport. In apertura, come dicevamo, l'economia con l'Eurogruppo e la battaglia sul bilancio comunitario. Su quest'ultimo fronte, durissima presa di posizione del presidente dell'Europarlamento Schulz. È inaccettabile e vergognoso che si facciano giochi politici sulla pelle delle persone colpite dal sisma in Emilia. I cinque paesi che venerdì hanno bloccato l'attivazione del fondo di solidarietà per 670 milioni si devono vergognare. Così Schulz, che ha garantito a monti l'impegno dell'Europarlamento. Il Parlamento europeo ha dichiarato: non può accettare giochi politici sulla possibilità per gente di risollevarsi da una terribile catastrofe. Oggi lo scontro sul bilancio comunitario 2013 proseguirà in sede Ecofin. Mentre per i negoziati sul budget 2014-2020 resta sul tavolo l'opzione di una cancellazione del summit previsto per il 22 e 23 novembre. Sarebbe l'estrema ratio se le trattative tra i 27, in particolare con la Gran Bretagna, che ha annunciato il suo veto, non facessero avvicinare le posizioni. Sentiamo il servizio. 230 euro l'anno a testa per oltre 500 milioni di cittadini dell'Unione. Tanto vale il piatto del bilancio 2013, la cassa comune dell'Europa, che ogni anno la Commissione propone, il Parlamento approva e il Consiglio delibera in ultima istanza. Gli Stati, insomma, hanno l'ultima parola, anche perché prima di prendere bisogna mettere dei tre canali, quello del contributo diretto è il più importante, il più politico, discutibile e discusso. Dal cosiddetto sconto britannico alle modalità di calcolo, tutto sotto la lente, mentre i tre contributori netti, Germania, Francia e Italia, coprono il 51% del totale, per poi trovarsi a subire blocchi di euroscettici e singoli interessi nazionali. È così che Erasmus e i fondi terremoto diventano merce di scambio nella trattativa per l'anno a venire, il 2013, che va chiuso con un accordo, mentre già si attinge al futuro per regolare il presente. Una materia complessa, addirittura cruenta, quando arriva la crisi. La Commissione chiede un impegno maggiore per le politiche comuni, Regno Unito e nordici non intendono aumentare il contributo. L'Europa unita si frammenta sui conti e mette in luce come gli interessi divergenti di lungo periodo, di Londra ma non solo, portino in direzioni così diverse da rendere indispensabile un chiarimento, anche brutale. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. L'intesa raggiunta tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea sancisce la volontà politica di finanziare lo stanziamento deciso in favore dei terremotati dell'Emilia, ma sul come reperire le risorse non c'è ancora l'accordo. E quanto si legge in una nota diffusa dall'Europarlamento dopo la sospensione dei negoziati sull'integrazione del bilancio europeo 2012 e l'approvazione di quello per il 2013. Le modalità per reperire i fondi per l'Emilia dovranno essere concordate oggi. Sentiamo. Inaccettabile, così Mario Monti ha definito un eventuale blocco dei fondi per i terremotati dell'Emilia-Romagna da parte dell'Unione Europea. Il Premier, nel fine settimana in stretto raccordo con il Ministro per gli Affari Europei, si è attivato per assicurare che i 670 milioni non vengano bloccati a causa delle difficoltà intervenute nel negoziato Parlamento-Consiglio-Commissione sulla rettifica del bilancio europeo 2012. Parlando al telefono con il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, e quello della Commissione, José Manuel Barroso, Monti ha sottolineato come tale blocco sarebbe inaccettabile per il nostro Paese, oltre che gravemente lesivo dei principi di solidarietà alla base dell'Unione Europea, ricevendo rassicurazioni da entrambi. Venerdì l'Europa si era impantanata nel negoziato sul bilancio e sui fondi, finiti ostaggio della faida che da tempo mina l'Unione. Contro lo stanziamento si erano schierati i falchi del rigore insieme agli euroscettici. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'Eurogruppo intanto è tornata in primo piano la Grecia dopo il voto sul bilancio nazionale per il prossimo anno nella tarda serata di domenica. La giornata di ieri è stata vissuta sul filo del rasoio. La Francia si è detta ottimista su un accordo per uno sblocco della nuova tranche di aiuti. Il direttore dell'FMI, Christine Lagarde, ha chiesto uno sforzo ai creditori per andare incontro agli sforzi ellenici. Ma al momento sembra prevalere un'attesa che non promette bene per Atene. Detonatore è stato l'ultimo rapporto della Troica internazionale anticipato da Bloomberg, secondo cui il paese potrebbe avere bisogno di ulteriori 15 miliardi di euro entro il 2014 e di altri 17,6 per il biennio 2015-2016. Bruxelles ha così tirato il freno. Prima occorre analizzare il bilancio appena votato, afferma la Commissione, mentre il presidente dell'Eurogruppo Juncker preferisce aspettare il pronunciamento del Bundestag tedesco e la Germania definisce irrealistica una decisione a breve sulla Grecia. Intanto Atene deve raccogliere 5 miliardi entro questa settimana per non finire in default. Sentiamo. Domenica è stato approvato il budget finale su questa misura, dura misura di ulteriori sacrifici che Atene deve fare per avere il premio di un nuovo piano di finanziamento da 31 miliardi, ma l'Eurogruppo in qualche modo ha fatto capire che non sarà ancora il disco verde e quindi si apre un grave problema, quello dei bond che scadono, bond greci che scadranno il 16 di questo mese. E a quel punto cosa può fare Atene per evitare il default? Deve emettere nuovi titoli di Stato a breve, i cosiddetti treasury bills, a 6 mesi, un anno massimo, e questo grazie all'accordo con l'Unione Europea che darà il via libera per fare questi treasury bill da 12 miliardi appunto a 17. Siamo quindi sull'orlo sempre del filo della baratro, sperando sempre che la Germania finalmente dia il via libera definitivo. In attesa del via libera dell'Eurogruppo alla nuova tranche di aiuti alla Grecia, le borse continentali chiudono una seduta contrastata attorno alla parità. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,39%, con le banche negative a fronte di uno spread BTP Bund a un passo da 370 punti base e i conti trimestrali alle porte. La stabilità finanziaria dell'area euro è messa a rischio dalle banche, che continuano a risentire del deterioramento della qualità dell'attivo, della bassa redditività e della difficoltà di raccogliere capitale di rischio, con ripercussioni sull'offerta di credito. A sottolinearlo la Banca d'Italia nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria, da cui emerge che il debole quadro macroeconomico continuerà presumibilmente a gravare sul margine di interesse delle banche europee e ad accrescere i tassi di insolvenza delle imprese, richiedendo cospicui accantonamenti a fronte dei rischi di credito. Per via nazionale tale prospettiva è avvalorata dal progressivo peggioramento delle attese sugli utili delle banche. Attualmente gli analisti finanziari stimano che una ripresa dei profitti rispetto ai livelli dello scorso anno si avrebbe solo dal 2014. Non si placa il maltempo su gran parte del centro-nord. Dopo Liguria e Toscana, ora la volta di Lazio e Umbria. A Montalto di Castro, tutti gli abitanti della zona della Marina sono stati allontanati dalle loro abitazioni. Si tratta di diverse centinaia di persone che hanno la casa lungo la costa della Tuscia, nel litorale nord. Problemi legati alla pioggia anche a Roma, con il Tevere che ha superato il livello delle banchine. E intanto si comincia a fare il conto dei danni. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, è pronto a chiedere lo stato di calamità. Ma anno dopo anno l'Italia e molti paesi europei si stanno rendendo conto che vanno attuate politiche serie di prevenzione. Sentiamo il servizio. I paesi del Mediterraneo, e l'Italia in primis, sono tra le aree del mondo più vulnerabili ai mutamenti climatici. Purtroppo, e in questo non siamo soli, il ritardo nell'intervento preventivo è molto profondo. Per ora non facciamo che arrivare a emergenza conclamata, pagando un prezzo di vite ed economico molto alto. Nel 2003 l'ARPA stilò uno studio e un lavoro, si trova su internet, col quale si spiegavano criticità e modalità di intervento nelle aree a rischio. Si trattava di agire non sull'accaduto, ma su quanto sarebbe accaduto. Per ora, un successo, almeno in alcune aree in Italia, lo abbiamo ottenuto. Si tratta dell'avvertimento alla popolazione e l'evacuazione preventiva. A livello europeo, il Trattato di Lisbona sancì una vera e propria lotta internazionale ai cambiamenti climatici. Ed è a questo che si ispira la richiesta del ministro dell'Ambiente Corrado Clini, quando chiede all'Unione Europea di allentare il patto di stabilità per liberare risorse pubbliche per la prevenzione. Liberare risorse per la prevenzione è una misura, dice Clini, per la crescita e la riduzione del debito. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere andiamo a Parigi per un'importante iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa nella lotta al doping nello sport di servizio. Una collaborazione con le grandi multinazionali del farmaco per condividere dati e strategie nella lotta contro il doping. Non è un caso, forse, che sia proprio una Parigi ancora scossa dal caso Armstrong, il 7 volte re del Tour, ora nella polvere proprio per il ricorso al doping, a ospitare la conferenza internazionale voluta sul tema dal Consiglio d'Europa e dal Ministero francese dello Sport. Intorno al tavolo esperti di tutto il mondo e rappresentanti delle grandi multinazionali farmaceutiche. Un confronto che ha prodotto un accordo che ora coinvolge l'Agenzia Mondiale Antidoping e la Federazione Internazionale dell'Industria del Farmaco. Trasparenza nella comunicazione agli utenti, condivisione di dati e ricerche scientifiche, prevenzione, questi i cardini dell'azione comune definita a Parigi, sperando poi che negli Stati membri si arrivi alla piena applicazione della Convenzione Europea Antidoping, che già esiste da 25 anni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.